Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Speciale Premio Campiello. Buonasera da Venezia, per una puntata speciale del Cacciatore di Libri per la 48esima edizione del Premio Campiello, uno dei premi letterari più prestigiosi nel panorama italiano, premio organizzato da Confindustria Veneto. Questa sera al Teatro La Fenice verrà scelto il vincitore del cosiddetto Super Campiello, verrà scelto cioè fra i 5 selezionati a maggio dalla giuria dei letterati, che quest'anno è stata presieduta dal regista Giuseppe Tornatore. A decidere il cosiddetto super vincitore sarà una giuria popolare di 300 persone, uomini e donne, di diverse età, diverse professioni. Tra l'altro i loro nomi restano segreti proprio fino alla proclamazione del vincitore, questo naturalmente per evitare qualsiasi ingerenza. Dunque il Campiello è veramente un premio a sorpresa, è praticamente impossibile fare previsioni. Ma veniamo ai 5 finalisti. Michela Murgia con Accabadora, pubblicato da Einaudi, Gianrico Carofiglio con Le perfezioni provvisorie, Sellerio, Gad Lerner con Scintille, pubblicato da Feltrinelli, Antonio Pennacchi con Canale Mussolini, pubblicato da Mondadori, fresco tra l'altro di Premio Strega, e infine Laura Pariani con Milano è una selva oscura, Einaudi. Tra l'altro questo è il secondo libro Einaudi in lizza per il Campiello. Partiamo con Accabadora di Michela Murgia. È ambientato nella Sardegna anni 50 ed è la storia di questa donna, l'Accabadora appunto, che ha il compito di portare la cosiddetta morte pietosa, in altre parole l'eutanasia. Ma il romanzo è soprattutto la storia del rapporto fra l'Accabadora e la figlia adottiva. Ecco come l'autrice ci parla dell'Accabadora. L'Accabadora è una donna delegata da una comunità del compito materno di portare a compimento un'agonia. Sbagliato accostarla all'eutanasia moderna. Noi spesso tendiamo a leggere la realtà trascorsa con le chiavi di lettura attuali. L'Accabadora risponde a una domanda formulata da una comunità. La sua è una risposta in qualche modo a un coro. Non mi pare che tutto il dibattito sull'eutanasia sia un ragionamento corale, anzi mi sembra che sia una grande confusione di posizioni individuali che non interpretano un sentire comunitario. Questa è una figura realmente esistita, come veniva vissuta dalla popolazione? Non si può dire che sia una figura realmente esistita, nel senso che se è esistita appartiene a quel periodo storico in cui in Sardegna la scrittura non veniva utilizzata per documentare il reale, quindi gli strumenti della storiografia moderna non hanno, come dire, non hanno elementi per affermare con certezza che l'Accabadora è esistita. Per me è interessante però il fatto che ne esistano le narrazioni, che esista un immaginario popolare che la colloca e le dà una funzione. E quindi ritengo che almeno in quel luogo dell'esistenza che è l'immaginazione, il racconto comune, l'Accabadora avesse una funzione del tutto naturale all'interno di quelle comunità. Altra protagonista del romanzo è questa bambina che poi diventa ragazza nel corso del romanzo, Maria, una filleanima. Chi è la filleanima? Questa sì che è un'usanza storica in Sardegna e non lontana nella storia, tra l'altro ci sono molti filleanima tuttora viventi in Sardegna e tra questi ci sono anche io. Si tratta di bambini che hanno avuto la fortuna di essere moltiplicati come figli, di aver mantenuto la propria famiglia d'origine ma di essere stati, come dire, beneficiati dell'addizione di altre figure genitoriali alla loro infanzia, altre madri e altri padri. Si tratta di un rapporto elettivo che nasce dall'affetto, non c'è uno scambio economico, non ti sto vendendo mio figlio, al contrario, intuisco che in quel bambino c'è, ci sono così tanti modi di essere figlio che non tutti possono essere coperti da un solo genitore. C'è molta tenerezza nel modo in cui descrivi Maria e anche il rapporto che c'è fra questa bambina e zia Bonaria, l'Accabadora appunto. Che relazione appunto c'è fra le due? È una relazione che risponde a un mondo dove vecchi, adulti e bambini non erano generazioni contrapposte nel modo in cui noi lo percepiamo oggi nella nostra modernità. Oggi esistono, penso che esistono musiche per bambini, libri per bambini, trasmissioni televisive per bambini. I bambini sono un target, i ragazzini sono un target. Il mondo dove sono cresciuta io era ancora un mondo dove le storie che i vecchi raccontavano davanti alla porta o davanti al camino avevano gli stessi interlocutori, bambini, adulti. C'era una percezione di grande comunicazione tra le generazioni. Mi piaceva raccontarla in questa storia. Che rapporto hai con la scrittura? Quando scrivi, quando ti piace scrivere? è un rapporto di grande fatica, lo dico utilizzando la parola fatica tra virgolette, perché chi scrive non monta traversine in ferrovia, questo bisogna sempre ricordarselo quando ci si trova davanti alla retorica della fatica dello scrivere. È faticoso perché ne sento la responsabilità, ho letto troppi libri buoni per non aver paura di scrivere ogni singola parola mancando di rispetto alle mie letture e a quelli che sono stati i miei maestri di formazione attraverso i libri. Da Michela Murgia, finalista Campiello con Accavadora, a Gianrico Carofiglio, che gareggia con Le perfezioni provvisorie pubblicato da Sellerio. Torna l'avvocato Guido Guerrieri, che era già presente in altri romanzi di Carofiglio. Questa volta, convinto da un amico, inizia ad indagare sulla scomparsa di una ragazza barese che studia a Roma. Ma ecco come Carofiglio parla del suo protagonista seriale. È un avvocato con alcune passioni e alcune ossessioni. Forse passioni e ossessioni coincidono, la prima di tutte la lettura e i libri, e poi altre cose, per esempio il pugilato e questa idea un po' tormentosa ma anche autoironica di giustizia o di equità. Ecco, forse queste sono le cifre del personaggio, che secondo me è caratterizzato poi soprattutto, perlomeno questo è il lato che a me piace di più, da un esercizio costante del senso dell'umorismo e soprattutto dell'autoironia. A proposito della passione per i libri, ci sono anche molte citazioni letterarie nel romanzo, è in questo che entra lo scrittore? Ma sì, poi io sono del parere che ogni scrittore sia essenzialmente seduto su una catasta di altri libri, ne sia o non ne sia consapevole. A me piace fare emergere, in termini di consapevolezza esplicita, col gioco delle citazioni, questo dato che è fondamentale, e trovo che le citazioni, se sono ben fatte, siano uno strumento narrativo potente, efficace. Naturalmente bisogna stare attenti, perché il rischio con le citazioni è quello dell'ostentazione, e allora si tratta di un percorso piuttosto sottile in cui è necessario citare quello che serve per raccontare un personaggio o una storia senza rischiare di cadere in quell'altro versante che, diciamo, è antiestetico e secondo me letterariamente anche antietico. Quanto c'è di Gianrico Carofiglio nell'Avvocato Guerrieri? Io ci scherzo e ci ho scherzato per molto tempo, ma naturalmente c'è molto. È un personaggio raccontato in prima persona e questo, lo capisco ora, non è casuale. Poi non esiste naturalmente né un connotato autobiografico né una identificazione completa fra narratore e personaggio narrato, ma non c'è dubbio che ci siano un sacco di cose che, come dire, che ci accomunano, per esempio i gusti letterari. Quest'anno sarà un Campiello un po' triste per la Sellerio, per la morte di Elvira Sellerio. Che ricordo hai di lei? Ma a me viene istintivamente di ricordare alcune cose, una in particolare, un episodio in particolare che poi in qualche modo dà ragione del fatto che senza di lei questa sequenza di romanzi con Guerrieri non ci sarebbe stata, perché io avevo scritto il primo e non pensavo di scriverne un secondo o addirittura un terzo e un quarto. E lei mi chiamò e mi chiese quando avevo intenzione di darle il secondo romanzo con Guerrieri. Io dissi, ma veramente non ci ho proprio pensato, non credevo di scriverne un altro. E lei mi fece con tono leggermente intimidatorio, guardi, lei fa un grosso errore se non ne scrive un altro. E io credo che senza quella sua intuizione, che poi era l'intuizione sul personaggio e sulla sua potenzialità, per esempio non sarei qui adesso a parlare di queste cose, e quindi ovviamente per questo e per altri motivi il ricordo e la gratitudine vanno insieme. Un'ultima domanda, adesso citavi anche altri romanzi, in genere i titoli dei tuoi romanzi sono sempre molto efficaci, molto evocativi, li pensi tu sinceramente o l'editore? No, la maggior parte dei titoli dei miei romanzi li ho individuati io e li abbiamo scelti insieme. Però, per esempio, Testimone inconsapevole, che è una locuzione contenuta nel romanzo, non era il titolo a cui avevo pensato io, e fu il titolo che suggerì invece Elvira Sellerio. Il mio titolo era inutilmente verboso, diciamo che risentiva tipicamente della inesperienza del principiante. E lei mi disse, a me piace Testimone inconsapevole, non so lei che dice. E io ci pensai un po' su e poi, per una serie di ragioni, mi parve che fosse un'intuizione esatta. Se pensiamo che questo romanzo, credo sia arrivato alla 55esima edizione, forse effettivamente era un'intuizione esatta. E questo era Gianrico Carofiglio, autore di Le perfezioni provvisorie. Altra finalista al Campiello è Laura Pariani con Milano è una selva oscura, pubblicato da Einaudi. La storia di Dante, quello che definiremo un barbone, un senza tetto. Ecco come lo descrive l'autrice. Dante è un personaggio un po' particolare, un vecchio milanese, è il 1969, lui ha 70 anni, è una persona che ha fatto il libraio per tutta la vita e che a 70 anni è un po' sciupato perché vive da anni per la strada, quindi sembra anche più vecchio della sua età. È una persona che, lui dice, si è sempre nutrita a pane classici e quindi i libri sono dentro nel suo cuore, sono nella sua mente e quando parla, parla citando i libri che ama di più e soprattutto i versi di Dante Alighieri, di cui ha scelto di prendere il nome. Infatti lui si è autobattezzato Dante Alighieri Lingera. Lingera è il nome che a Milano si dà a chi sceglie di fare il vagabondo. Dopo aver letto il suo libro, io personalmente mi sono accorta di guardare senza tetto in modo diverso. Ogni volta che ne vedo uno penso potrebbe essere Dante. Lei aveva già questa visione diversa o le è venuta poi scrivendo il libro? Non so, mi hanno sempre affascinato le persone che hanno scelto la strada, perché sempre mi sembra di intuire dietro una grande sofferenza, c'è qualcosa, un disagio che ti fa dire io lascio la vita che ho condotto, la vita che conducono tutti e non c'è più una regola e non c'è più il tempo, no? Il perché uno faccia questo tipo di scelte, se ne vada di casa, è qualcosa che credo tutti possono esserne colpiti, tutti possono pensarci con angoscia. Il cacciatore di libri. Speciale Campiello da Venezia, perché questa sera al Teatro La Fenice verrà proclamato il vincitore del Super Campiello. Fra i finalisti un libro che non è propriamente un romanzo, è più che altro un mix fra un romanzo e un saggio. È il racconto della vita della famiglia di Gad Lerner, famiglia ebrea che finisce per scegliere l'Italia come patria di adozione. Lo scrittore e giornalista, lo ricordiamo, è nato a Beirut. Il libro si intitola Scintille, una storia di anime vagabonde, e il perché lo spiega lo stesso Lerner al microfono di Silva Menetto. In ebraico netzitzot neshamot, cioè scintille d'anima. È la mistica della Kabbalah, la mistica ebraica che ha pensato questo rapporto che noi tutti abbiamo con i nostri congiunti, con le anime di quelli che ci ronzano attorno, perché non è vero che la morte separi nettamente un al di qua da un al di là. E nel mio caso sono le scintille d'anima di persone disseminate lungo il percorso della migrazione della mia famiglia. E non sono però le scintille che sono sprigionate tra lei e suo padre dopo che il libro è uscito. No, quelle c'erano prima e non mi illudevo di rimuoverle, mi illudevo invece, spero di avercela fatta, di compiere uno sforzo di comprensione, di interpretazione anche di queste difficoltà che hanno provocato prima il divorzio dei miei genitori, forti conflitti dentro alla famiglia e che andavano spiegate a me stesso innanzitutto, ma poi ai miei figli, e costituiva questo sforzo probabilmente l'atto di rispetto che dovevo anche all'infelicità di mio padre, ai suoi fallimenti e alle sue difficoltà di vivere. Lei chiede scusa all'inizio del libro proprio ai suoi genitori, perché questo libro è la storia di suo padre, di sua madre, scritta mentre loro sono vivi. Sua madre come l'ha presa? Con fatica, anche mia madre così come mio padre, ma io penso che l'unico modo che avevo di onorare davvero il precetto, il comandamento, esigeva, anche se sono stato molto incerto, lo ammetto, pubblicarlo, aspettare, di evitare però l'opportunismo dello scriverlo dietro le loro spalle. Credo che sia per mio padre che per mia madre possa essere stato anche difficile, certamente doloroso, avvicinarsi a questa interpretazione della nostra storia, ma che sia il più grande atto di rispetto che io potevo e dovevo fare nei loro confronti. Lei nel suo blog scrive: il mio scintilla è stato scelto tra i finalisti del Campiello, evviva, lei scrive. Che rapporto ha con i premi letterari? Non ci credeva? È già la parola letterari che non era prevista. Il libro è stato pubblicato in una collana di saggistica, è entrato in classifica tra i saggi e non certo tra i romanzi, anche perché, ahimè, è tutta una storia vera quella che c'è scritta, non c'è nessuna invenzione letteraria. Tanto è vero che immaginavo che questo libro, anche l'editore immaginava che questo libro sarebbe rimasto un po' in un cantuccio. È stata una sorpresa molto grossa per me scoprire che suscitava invece meccanismi di identificazione, proprio perché invece, mi scusi la parolaccia, ma così ci capiamo meglio, di casini familiari sono pieni tutti e questi conflitti, queste difficoltà familiari si intrecciano sempre con la storia, con la S maiuscola, e quindi il libro probabilmente ha suscitato dei meccanismi di identificazione che ne hanno fatto un successo davvero per me molto gratificante, ma inaspettato. E questo era Gad Lerner, autore di Scintille. Ha invece da poco vinto lo Strega e ora punta anche al campiello Antonio Pennacchi con Canale Mussolini, pubblicato da Mondadori. Il romanzo racconta la storia di una fra le migliaia di famiglie che durante il fascismo si spostarono dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto e dal Ferrarese per abitare la palude pontina appena bonificata. Nella prefazione Pennacchi scrive: questo è il romanzo di una vita. Perché? Sentiamo l'autore. Non è che dico il romanzo di una vita, è il romanzo che io sapevo di dover scrivere da quando ero bambino. Quando avevo l'età di 7 anni stavo in campagna con mio zio Iseo Gelindo e da lì sapevo che avrei dovuto scrivere questa storia, la storia della mia famiglia e la storia del nostro potere. E insieme alla storia della mia famiglia, quindi con altre 3.000 famiglie venute giù dal Veneto, dal Friuli e dal Ferrarese negli anni 30 in Agropontino, lì c'erano le paludi, era tutto sott'acqua e la mia famiglia e quelle altre 3.000 famiglie hanno prosciugato le terre, dissodato i terreni e di una palude fatto un giardino terrestre. Quindi io sapevo di dover scrivere questa storia. Quanto c'è di vero nella storia che racconta e quanto spazio è dato invece alla fantasia? Guardi, c'è tanto spazio al lavoro letterario, cioè al mixaggio. Alla fantasia in sé non ce n'è per niente, perché i fatti sono tutti veri. O tutti capitati direttamente alla mia famiglia o ad altre famiglie lì vicino. Voglio dire, in questo libro non esiste una famiglia Peruzzi in Agropontino a cui siano capitate tutte queste cose, ma non esiste nessuna famiglia in Agropontino a cui non siano capitate almeno parecchie di queste cose, e queste cose sono comunque capitate tutte. Nel romanzo c'è anche grande spazio per la ricostruzione storica. Ecco, lei si è basato solo sulle sue esperienze, sulle storie che ha sentito raccontare o ha dovuto documentarsi in qualche modo? Beh, vede, se io sapevo di farlo, di doverlo fare a 7 anni d'età e l'ho fatto invece adesso, ce n'ho 60, quindi sono 53 anni ci ho messo, perché evidentemente è dietro. Proprio, io sapevo le storie della mia famiglia e delle altre famiglie, ma queste andavano inquadrate in un contesto più complessivo e il contesto più complessivo l'ho dovuto studiare. E poiché gran parte di questo contesto non era stato studiato da nessuno, perché il fenomeno delle bonifiche, anche De Felice lo salta, prima di fare il mio romanzo storico, mi sono dovuto fare storico io. Io non sono uno storico, io sono un narratore. Dopo lo Strega a questo punto punta al campiello. Tocchiamo ferro, nel senso che c'è anche aspettiamo il match. Non è che non sia contento di avere vinto lo Strega o di essere in finale al campiello, certo che sono contento, vorrei pure di più, insomma, vorrei pure il Nobel, ma non è per questo che ho fatto questo libro. La cosa di cui sono più contento è di avere fatto il libro, così io sono in pace con me stesso e con me. Poi bello brutto che sia, insomma, era il compito che dovevo fare, l'ho fatto, adesso sto in pace con i miei morti. E questo era Antonio Pennacchi, autore di Canale Mussolini. Il romanzo, lo dicevamo anche prima, ha già vinto il premio Strega di pochi voti su Acciaio di Silvia Avallone. E proprio Acciaio è stato già premiato qui a Venezia perché si è aggiudicato il Campiello Opera Prima. Sentiamo Silvia Avallone. Sono molto contenta di essere qui poi in una città come Venezia con questo clima che è molto festaiolo, molto bello. E, diciamo, non mi rendo conto proprio tanto di tutti questi successi. Ho voglia di tornare a lavorare e ovviamente sono contenta però. Una ragazza giovane come te che insomma vince già un premio importante come questo, poi insomma lo Strega al secondo posto, che carriera ha davanti? Cosa si aspetta? Io mi sento molto la responsabilità dei lettori principalmente, e quindi ci tengo a non deluderli coi prossimi romanzi. Poi per me almeno uno scrittore si fa col tempo, con tanti libri, quindi mi sento comunque all'inizio e ho voglia di andare avanti il più possibile, ecco. Ma questo vuol dire che stai già lavorando a qualcos'altro? Adesso, cioè, ci sto pensando, però deve finire, cioè si scrive, secondo me, almeno io scrivo a casa, lontana da tutte queste telefonate, tutti questi viaggi, per cui prima devo tornare alla mia vita e poi ricomincio subito però. E questa era Silvia Avallone, autrice di Acciaio. Infine la novità di quest'anno al Campiello, il premio Fondazione Il Campiello, riconoscimento attribuito ad un'insigne personalità della cultura letteraria italiana. Stavolta è stato scelto Carlo Fruttero. Sentiamo Andrea Tomat, presidente di Confindustria Veneto e della Fondazione Campiello. Il premio alla carriera, che è appunto quello che viene consegnato dalla Fondazione Campiello, è un premio che vuole, come dire, non riconosce solo l'opera, ma l'opera come singola edizione, ma appunto la carriera di una persona che ha contribuito per molti anni, quindi per lasciare un segno, diciamo, forte e significativo nell'ambito della letteratura italiana. Abbiamo appunto voluto scegliere Fruttero perché non solo, diciamo, ha avuto anche l'occasione di partecipare alla nostra manifestazione, ma ha in verità lasciato un segno indelebile, un segno che è andato a connotare, diciamo, una certa traiettoria della produzione letteraria italiana, che credo con molto merito verrà riconosciuto appunto nella serata di sabato. Finisce qui lo speciale dedicato al premio Campiello. Più tardi si conoscerà il nome del vincitore. Noi ci risentiremo nel GR delle 22. Dunque, a più tardi e una buona serata da Alessandra Tedesco.